base la mia voce è tutto quello che mi serve per dirti cosa penso senza tenermi riserve. Cattivo non lo sono a meno che proprio non serve. Tu non sarai cattivo ma di certo sembri un verme. Allora dimmi un po' che cosa ne pensi. Allora forza dai, non è più consensi. Dimmi qualcosa che ci renda contenti. Facciamo così, ora io parlo e tu senti. Detesto l'artista che nei suoi pezzi fa politica, chi spaccia la sua roba come unica e mitica. Detesto quella faccia a tutti i costi simpatica che non ha nulla da dire e per questo critica. Detesto i cortei, tutte le manifestazioni. Detesto i politici sbracati sui loro troni. Detesto pure voi che in fondo siete dei coglioni, che avete di tutto e sputate sopra quei doni. Godo se tu scendi a compromessi, coi permessi dei suddetti, cambi facce e suoi annessi. Dopo mille scuse e fatti incerti, è così che resti, lo diresti che giochetti. Cazzo ti son freddi, ci riesci? Guarda, io ne sono convinta, la tua cattiveria la spacci per amicizia, è la solita minaccia, questa è guerra preventiva. Guardati la schiena, attenta a quel che arriva, assorbo per osmosi quel che dici. Ridicoli fin troppo liberi, fastidiosi come cimici. Di gente come voi, io ne conosco a pacchi, t'afferrano il fegato e vanno con lo schiacciasassi. Se capissero i tuoi slanci, tutti pianificati, se pensassi che tu abbia gesti disinteressati. Una stupida lo so, sarei davvero pessima, la verità, tu non sarai mai abbastanza femmina. Che ci stai sul cazzo, questo è un dato di fatto. Facciamo un patto tra di noi e vietato il contatto. Esatto, ora striscia nel tuo sporco affratto, perché innanzitutto a noi non ce ne importa affatto. Che ci stai sul cazzo, questo è un dato di fatto. Facciamo un patto tra di noi e vietato il contatto. Tanto che pensi, noi non lo diremo mai. Sai che vogliamo, bitch get out the way. Alle tipe del club che si credono strafighe, mi viene a dedicare solo un paio di righe. Far la faccia snob, siete tutte disturbate. Mi chiedo solo se lo specchio lo usate. Troppi di voi hanno questa falsa convinzione, di sé di qualche dea, la reincarnazione. Non sorge né tramonta il sole fra le vostre gambe. Non portate un tesoro dentro le mutande. Non sono l'epigono di un qualsiasi coglione. Socrate ormai è il mio secondo nome. Non pretendo la fama per tutta la nazione, ma spero che ciò che dico svegli le persone. Spero che la mia rima possa servire a qualcuno, perché quando siete a me non ne trovai da nessuno. Una parola fa tanto, non serve che te lo dica. Per ora questo è quando, questa trofa è finita. Che ci stai sul cazzo, questo è un dato di fatto. Facciamo un patto tra di noi e vietato il contatto. Esatto, ora striscia nel tuo sporco affratto, perché innanzitutto a noi non ce ne importa affatto. Che ci stai sul cazzo, questo è un dato di fatto. Facciamo un patto tra di noi e vietato il contatto. Tanto che pensi, noi non lo diremo mai. Sai che vogliamo, bitch get out the way. Che ci stai sul cazzo, questo è un dato di fatto. Facciamo un patto tra di noi e vietato il contatto. Esatto, ora striscia nel tuo sporco affratto, perché innanzitutto a noi non ce ne importa affatto. Che ci stai sul cazzo, questo è un dato di fatto. Facciamo un patto tra di noi e vietato il contatto. Tanto che pensi, noi non lo diremo mai. Sai che vogliamo, bitch get out the way.